GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo 11 mesi di attesa, una donna triestina di 55 anni affetta da sclerosi multipla dal 2010 potrà accedere alla morte volontaria assistita. È la prima cittadina della regione e la quinta persona in Italia. Lo ha comunicato l'associazione Coscioni, che ha reso nota la decisione in merito presa dal comitato etico di Asugi. Trasferiti a Tor Viscosa, la ventina di ospiti della struttura per minori stranieri non accompagnati di Viale 23 Marzo a Udine, e oggi l'inaugurazione di una nuova residenza a Cervignano che ospiterà 23 ragazzi. Il caporalato è un fenomeno antico ed endemico nell'economia agricola e anche nel goriziano. Questo è uno degli elementi emersi al comune di Gorizia, dove è in corso una tavola rotonda fra chi lotta tutti i giorni contro lo sfruttamento del lavoro. Ieri la contestazione a Trieste dei contrari al progetto di una nuova via. Oggi a Bibione si sta tenendo l'assemblea dei gestori di impianti a fune con la partecipazione di rappresentanti del Friuli Venezia Giulia. In corso a Udine la prima edizione delle giornate cardiologiche udinesi. L'obiettivo è affrontare le principali novità diagnostico-terapeutiche in ambito cardiologico alla luce dei più recenti dati di letteratura medica. Resi noti i vincitori della 20ª edizione del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, e torna oggi a Trieste la notte europea dei ricercatori con diverse attività pratiche dedicate a tutte le fasce d'età, ma anche spettacoli e conferenze. Al via questa sera il cartellone di teatro contemporaneo del Teatro Bobbio di Trieste. 13 appuntamenti che presentano alcune tra le proposte più interessanti della scena nazionale. Oggi 29 settembre, buongiorno da Giorgio Bearz e Daniele Lettige, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo 11 mesi di attesa, dunque, una donna triestina di 55 anni affetta da sclerosi multipla dal 2010 può accedere alla morte volontaria assistita. È la prima cittadina del Friuli Venezia Giulia, la quinta persona in Italia. A comunicarlo poco fa l'associazione Coscioni, che ha reso noto la decisione in merito presa dal comitato etico di Asugi. Dopo 11 mesi di attesa dalla prima richiesta, Anna ha ottenuto il via libera definitivo per la morte volontaria assistita. Lo ha annunciato l'associazione Luca Coscioni, che la segue sin dall'inizio in questa sua battaglia. La triestina, il cui nome è fittizio per rispettare la sua scelta di non essere sotto i riflettori, potrà godere del diritto sancito dalla Corte Costituzionale di ottenere il suicidio assistito a determinate condizioni. Il nucleo etico per la pratica clinica di Asugi, l'azienda sanitaria, ha preso atto del parere formulato dalla Commissione Medica Multidisciplinare. Ad agosto aveva accertato la sussistenza dei criteri necessari stabiliti dalla consulta, come l'irreversibilità di una malattia, la sclerosi multipla ritenuta dalla paziente in virtù della condizione di dipendenza totale da terzi fonte di sofferenze psicologiche intollerabili. La commissione medica era stata sollecitata a intervenire da un'ordinanza del Tribunale di Trieste, a cui si era rivolta l'associazione Coscioni dopo che Asugi non aveva risposto alla prima istanza di Anna. Il nucleo etico non ha solo individuato il farmaco e le modalità idonee per eseguire la volontà della donna, ma ha disposto che sia Asugi stessa a mettere a disposizione il setting aziendale appropriato, ad esempio con medico, infermiere e psicologo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora i temi dell'immigrazione, con il trasloco avvenuto nella tarda serata di ieri degli ospiti della struttura per minori stranieri non accompagnati di Viale 23 Marzo a Udine, che sono stati trasferiti a Tor Viscosa. Intanto a Cervignano è stata inaugurata una nuova residenza che ospiterà 23 ragazzi. Nel giro di pochi chilometri tra Cervignano del Friuli e Tor Viscosa, due diverse storie di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Il trasloco della cooperativa Oikos nei nuovi spazi di Cervignano, l'ex sede della Guardia di Finanza di Via Caiù, sede inaugurata proprio questa mattina. E quello ancora in corso della cooperativa Edis, al centro delle polemiche per la gestione dell'ordine pubblico nella sua struttura di Viale 23 Marzo a Udine, la quale si trasferirà proprio nei locali di un privato lasciati da Oikos a Tor Viscosa. Si tratta di un subentro, precisa il sindaco, per il quale sono state rilasciate le necessarie autorizzazioni. Accordo tra privati anche a Cervignano, dove il sindaco Andrea Balducci ha ribadito che la sua giunta è favorevole a un tipo di accoglienza responsabile, prendendo in prestito una definizione del Papa. Là dove c'è un problema, ha detto all'inaugurazione della nuova struttura di Oikos, ci deve essere una risposta adeguata. Sottolineata la serietà della cooperativa, quando li abbiamo chiamati per chiedere se avevano un posto per due minori rintracciati a Cervignano, anche solo per una notte, ci hanno detto «non possiamo, siamo al completo e siamo ligi alle norme», ha aggiunto il primo cittadino. La nuova comunità di Cervignano potrà ospitare fino a 23 ragazzi dai 13 ai 17 anni. Sull'accoglienza non c'è una conoscenza diffusa, sottolinea Giovanni Tonutti, presidente di Oikos. «Venite a trovare i nostri ragazzi, l'invito. La comunità è aperta, venite a conoscere le loro storie, il loro vissuto e i loro percorsi di formazione». Sono arrivati meno migranti rispetto al 2017, ma allora, aggiunge Tonutti, c'erano 100.000 posti di accoglienza in più in tutta Italia. Il problema, conclude, è pianificare sulla base di dati oggettivi ed essere consapevoli che la nostra società sta cambiando. Cervignano del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca, 3 feriti di cui uno in condizione seria e gli altri 2 ricoverati in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono il bilancio di un incidente stradale accaduto ieri sera lungo la tangenziale di Udine nel tratto compreso tra Povoletto e Tavagnacco nel territorio comunale di Reana del Royale. Sul posto un'ambulanza e l'automedica proveniente da Udine, i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi. Un cittadino pakistano è stato arrestato nella serata di ieri a Gorizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti di una volante hanno notato e fermato un'auto in corsa. Hanno notato e fermato in corsa un'autovettura con a bordo 6 persone, intenta a percorrere in modo sospetto via Italico Brass. Uno dei passeggeri, al momento dei controlli, ha tentato di nascondere tra i sedili 2 involucri contenenti pani di hashish e numerose banconote. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Sono iniziati questa mattina gli interventi di messa in sicurezza di alcuni punti del palazzo municipale di Muggia, dove ieri pomeriggio si erano verificati alcuni cedimenti che hanno comportato l'intervento dei vigili del fuoco. In particolare sono crollate parti del cornice del tetto e dell'intonaco della facciata. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a transennare l'ingresso principale del palazzo su Piazza Marconi, che risulta dunque non accessibile, e parte di quello laterale. In mattinata l'impresa incaricata dal comune ha svolto i primi rilievi e iniziato i lavori. L'accesso al municipio è attualmente possibile solo dall'ingresso laterale. Non chiamiamola emergenza, il caporalato è un fenomeno antico ed endemico nell'economia agricola, industriale ed edile, anche nel goriziano. Questo uno degli elementi emersi al comune di Gorizia, dove è in corso una tavola rotonda tra chi lotta tutti i giorni contro lo sfruttamento del lavoro in questo territorio. Gorizia, città europea della cultura nel 2025, ma esiste una cultura se non c'è il rispetto dei diritti, soprattutto quello dei lavoratori? Con questa provocazione morale Enrico Sbriglia, presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, si rivolge agli esponenti di CISL, UIL della regione, dell'Ispettorato del Lavoro e di Confagricoltura presenti al tavolo ospitato dal comune di Gorizia sul tema della lotta al caporalato. A sollevare il problema è stata Anna Limpido, dal 2021 è consigliera di parità della regione Friuli Venezia Giulia, che non è solo un ruolo di sensibilizzazione, spiega, ma è un pubblico ufficiale, quindi quando ha notizia di reato come lo sfruttamento ha l'onere di intervenire anche processualmente. Anna Limpido non ha mai ricevuto notizie di caporalato, ma questo non la illude che il fenomeno non esiste. Enrico Sbriglia aggiunge che si tratta di un fenomeno antico ed endemico nell'economia italiana e oggi non è solo nell'agricoltura ma anche nell'edilizia e nell'industria, perché fingiamo di vedere che non c'è. L'avvocata Teresa Dennetta spiega: abbiamo le migliori norme in Europa per contrastare il caporalato. Lei, che è coordinatrice dei punti di ascolto di antimobbing di Gorizia e Udine e si occupa di disagio lavorativo da 17 anni. I moderni schiavi sono quasi tutti uomini stranieri, ma lo sfruttamento è una zona grigia molto vasta, fatta anche di dimissioni in bianco, da ore di lavoro straordinarie pretese mai pagate. Mancano risorse e incentivi per lottare contro tutto questo, spiega Pierpaolo Guaglione, capo dell'Ispettorato del Lavoro di Trieste e Gorizia. Le prime ad essere danneggiate, sottolinea Guaglione, sono le aziende virtuose. I criminali che schiavizzano il lavoro fanno così concorrenza sleale. E l'immigrato a cui un caporale offre lavoro e alloggio accetta, perché spesso un'alternativa non ce l'ha. Umberto Daneluzzi, direttore di Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia, spera che questo tavolo possa essere ripetuto e anche allargato a chi si occupa di industria. Vedi il caso Fincantieri del 2018 con il problema dei subappalti che schiavizzavano degli operai bengalesi. L'illegalità cerca le persone fragili, che oggi sono i migranti, e quindi il focus si sposta su questo tema. Gorizia, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Asugi e le associazioni Federfarma di Trieste e Gorizia hanno dato avvio a quanto previsto nell'accordo che permetterà ai cittadini di poter effettuare comodamente gli elettrocardiogrammi nelle farmacie di comunità, con la certezza che il referto venga preso in carico dalla struttura patologie cardiovascolari del Dipartimento Specialistico Territoriale. Al momento hanno aderito all'iniziativa e completato la fase di formazione del personale preposto presso le strutture di Asugi 29 farmacie in area giuliana e 10 in area isontina. Questa collaborazione offre almeno due vantaggi. Da un lato garantisce gli utenti, in quanto la lettura degli ECG viene effettuata da professionisti in grado di confrontare l'esame con quanto presente negli archivi Asugi e di indirizzare prontamente il paziente verso percorsi diagnostico-terapeutici appropriati qualora fosse necessario. Dall'altro, la collaborazione con la struttura che si occupa di patologie cardiovascolari consente di far acquisire ai sanitari ulteriori dati sullo stato di salute della popolazione, in modo capillare e puntuale sia nell'area giuliana che isontina. Questa mattina nella rubrica Buongiorno Regione si è parlato delle nuove norme del codice della strada recentemente varate dal governo. Sentiamo le novità nell'intervista con il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi. Sanzioni più salate, fino a 1.697 euro per chi parla o scrive al telefono mentre guida, oltre alla sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Multe aumentate anche per eccesso di velocità, che potranno raggiungere i 1.084 euro. Regole più severe per i neopatentati, per i quali salirà da 1 a 3 anni il divieto di guida di auto potenti. Sono alcune delle regole previste nel disegno di legge sul nuovo codice della strada, approvato dal Consiglio dei Ministri, che attende ora di iniziare l'iter parlamentare. Walter Milocchi, comandante della Polizia Locale di Trieste. Le nuove regole vanno a rendere più semplice l'accertamento della guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, permettendo controlli direttamente da parte di ordine polizia stradale senza il necessario ausilio dei sanitari, delle norme che riguardano chi verrà sorpreso alla guida in ebbrezza alcolica e quindi avrà l'obbligo di alcol zero per un paio d'anni e anche l'obbligo di installare a bordo del veicolo l'alcol block, che è un dispositivo che impedisce di circolare se sente la presenza di alcol nell'aria. Nel nuovo codice sono ipotizzate anche norme a tutela dei ciclisti e per chi va in monopattino. Ma per quanto riguarda i monopattini in particolare, verrà esteso l'obbligo del casco non più solo ai minori, attualmente tra i 14 e i 18 anni possono circolare con monopattino elettrico ma col casco, ma verrà esteso anche ai maggiorenni. Verranno dotati di un contrassegno plastificato per permettere eventualmente l'accertamento di soste sui marciapiedi o dove vanno a creare situazioni di disagio per i pedoni, e verrà anche previsto l'obbligo dell'assicurazione. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Confcooperative Alpe Adria è un'organizzazione composta oggi da 400 imprese con oltre 82.000 soci, quasi 13.000 addetti per 565 milioni di euro di ricavi, con sedi nelle ex province di Udine, Gorizia e Trieste. Le ultime due saranno ora alimentate completamente da fonti di energia 100% rinnovabile. La fornitura annuale prevista permetterà un risparmio di emissione di anidride carbonica di 768 kg. Per assorbire la stessa quantità di anidride carbonica servirebbe un bosco di 51 alberi. Vogliamo dare un segnale concreto di attenzione all'ambiente, al quale pensiamo possano ispirarsi molte realtà imprenditoriali, spiega il direttore Paolo Tonassi, per contribuire al contenimento delle emissioni. Il tema dell'energia del resto negli ultimi due anni è diventato di prorompente attualità. La stessa creazione di Power Energia alcuni anni fa è stata pensata dal mondo cooperativo anche per favorire l'approvvigionamento energetico delle imprese cooperative a condizioni vantaggiose. Ieri ci siamo occupati del progetto dell'Ovovia di Trieste, con la contestazione di una cinquantina di esponenti del comitato durante la presentazione pubblica del prototipo di cabina da parte della società Leitner. E oggi, nel vicino Veneto e precisamente a Bibione, si sta tenendo l'assemblea dei gestori di impianti a fune, con la partecipazione anche di rappresentanti del Friuli Venezia Giulia. La crisi climatica e la conseguente necessità di adattamento è la sfida più impegnativa sulla quale si sono confrontati i gestori riuniti a Bibione per l'Assemblea Generale dell'ANEF, l'associazione che riunisce circa 300 esercenti funiviari in tutta Italia. Valeria Ghezzi è presidente nazionale. La crisi climatica c'è, inutile negarlo, gli impianti di innevamento sono nati per quello. Ogni zona deve valutare bene quella che può essere la propria vocazione turistica. Gli impianti così a bassa quota da non poter più funzionare sono veramente pochi, e in ogni caso tutti gli impiantisti in alta e in bassa quota stanno investendo molto sulle stagioni estive, e questo è anche un metodo di riconversione. Dei 44 impianti in Friuli Venezia Giulia in 6 poli, circa il 20% è sotto quota 1400 metri. Il piano regionale Montagna 365, che dispone di 60 milioni di euro, prevede un rinnovo degli impianti anche per l'uso estivo, con ad esempio la possibilità di carico delle biciclette o la realizzazione di parchi tematici in quota. Dalla montagna alla città, con il discusso progetto di Cabinovia a Trieste. Per l'azienda altoatesina Leitner, gli impianti a fune in contesti urbani contano ormai per il 10% in crescita del totale. Il procuratore generale di Leitner, Giorgio Pilotti. Abbiamo sentito le polemiche, noi riteniamo comunque che la soluzione tecnologica della funivia anche in ambito urbano sia sicuramente una soluzione assolutamente ecologica ed economica, assolutamente sostenibile. Abbiamo la dimostrazione di questo anche in tanti parti del mondo dove abbiamo realizzato impianti simili. Bibione, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E alle 12.46 minuti diamo uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo è sereno sulla nostra regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 24 gradi e 5 decimi, il mare è poco mosso con temperatura di 23 gradi. A Udine Pordenone 25 gradi e 5 decimi, a Gorizia 24 gradi e mezzo, a Tolmezzo 19 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 17 gradi e 5 decimi, 16 gradi e 5 decimi a Tervisio, 16 gradi a Sappada e Piancavallo, sul Monte Zoncolan 12 gradi e mezzo, 11 gradi e 5 decimi sul Monte Lussari. Passando la costa, a Grado 25 gradi, a Lignano 22 gradi e 5 decimi, e la temperatura del mare è di 21 gradi e mezzo. E sembra che le condizioni meteo attuali proseguiranno anche nel weekend, come ci anticipa il previsore dell'ARPA Gabriele Fasano. La situazione meteorologica in questi giorni vedrà la permanenza di un anticiclone tra l'Europa sud-occidentale e centrale, che manterrà anche sulla regione tempo stabile, soleggiato e caldo per qualche giorno. Nella giornata di sabato avremo il temporaneo passaggio di umidità a quote intermedie, che però non avrà probabilmente alcun effetto, solo un po' di cielo poco nuvoloso. Nella giornata di domenica invece prevalenza di cielo sereno. I venti saranno in prevalenza di brezza e le temperature saranno decisamente alte per il periodo, con massime attorno ai 28 gradi in pianura, 25-26 sulla costa. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, anche lunedì e martedì si preannunciano al momento giornate di tempo stabile, soleggiate e caldo. In occasione del 60° anniversario del disastro del Vajont, il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Fondazione Centro Studi del CNG, gli Ordini Regionali dei Geologi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i comuni di Longarone, Erto e Casso e con la Fondazione Vajont, organizzano proprio a Longarone oggi e domani una serie di eventi incentrati sulla sostenibilità tecnica, ambientale, economica e sociale delle grandi opere. Alla conferenza prendono parte, oltre al governatore Luca Zaia, governatore del Veneto Luca Zaia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della protezione civile Nello Musumeci e la vice ministra all'ambiente Vania Gava. All'hotel La Dimorette di Udine si sta tenendo in questi giorni la prima edizione delle giornate cardiologiche udinesi. Lo scopo è quello di affrontare le principali novità diagnostico-terapeutiche in ambito cardiologico, alla luce dei più recenti dati di letteratura medica, includendo gli aggiornamenti delle più recenti linee guida nazionali ed internazionali. 200 professionalità mediche e infermieristiche italiane si sono date appuntamento a Udine per la prima edizione delle giornate cardiologiche udinesi. Una a due giorni di scambi e di esperienze e protocolli in ambito cardiologico, una disciplina in rapida evoluzione con continui aggiornamenti in tema di diagnosi e terapia. Massimo Imazio, direttore cardiologia e dipartimento cardiotoracico dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, è professore associato all'Università di Udine. Temi molto importanti dove la cardiologia udinese è impegnata, che vengono discussi da esperti locali e nazionali in modo da vedere quello che è l'impatto poi sulla diagnosi e terapia di queste importanti malattie cardiovascolari. quali sono i fattori da tenere sempre sotto controllo. Viene sottolineato dalle linee guida del diabete l'importanza di una valutazione complessiva del rischio cardiovascolare del soggetto, quindi dalle abitudini di vita, quindi il fumo, alla ipertensione, alla dislipidemia, al diabete, che devono essere tutte valutate insieme complessivamente, perché prese singolarmente conferiscono un rischio, ma associate comportano un rischio molto maggiore. Affrontare le principali novità diagnostico-terapeutiche in ambito cardiologico alla luce dei più recenti dati di letteratura, includendo gli aggiornamenti delle più recenti linee guida nazionali e internazionali, il fine delle 2 giorni di incontri multidisciplinari. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal 17 al 19 novembre il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta con i suoi vincitori apre di nuovo e con forza una finestra sulle sofferenze causate dalle guerre nel mondo, promosso annualmente per sostenere la sensibilizzazione dell'infanzia violata e minacciata nel mondo, è giunto ora alla sua 20ª edizione. I vincitori sono Elena Basso per la stampa italiana, Sabrina Carreras, Lisa Iotti, Irene Sicurella e Antonella Bottini per la categoria reportage, Céline Martelet per la stampa internazionale, Vincenzo Frenda per TV News e Marco Gualazzini per la fotografia. Sono stati assegnati ieri, nell'ambito della 52esima edizione della Mostra regionale della Mela, i premi del 33esimo concorso per i mieli della città di Pantianicco, concorso rivolto agli apicoltori iscritti e non ai consorzi regionali, indetto dalla Proloco di Pantianicco in collaborazione con l'ARPA Friuli Venezia Giulia e il Consorzio Apicoltori della provincia di Udine, con l'intento di promuovere e propagandare il consumo del miele. I migliori mieli sono stati scelti tra 116 campioni arrivati da una cinquantina di aziende da tutta la regione, a partire da Udine, con una netta prevalenza di campioni. Le aziende partecipanti spaziano dai monti al mare, da Enemonzo alla Tisana, ma non sono mancati apicoltori della provincia di Trieste, Gorizia e Pordenone, e hanno partecipato anche apicoltori del vicino Veneto. I campioni sono suddivisi in millefiori, tiglio, castagno, mieli particolari e tiglio. Con la cerimonia dell'alza bandiera, avvenuta stamattina nella sede della società organizzatrice, ha preso il via oggi a Trieste la kermesse della Barcolana. Domani apriranno i primi stand del villaggio in Piazza Unità e accanto alla Scala Reale. Inizia oggi anche il lungo cartellone di eventi che condurrà alla 55esima edizione della gara velica. Dopo 5 anni di assenza, torna questa sera al concerto legato alla regata. Ad esibirsi in Piazza Ponterosso saranno i Coma Cose, nell'ultima data del loro tour italiano. Ingresso libero, inizio della serata alle 20:00. Con il DJ set di Broccoletti Pop. 34 attività in 6 ore per scoprire cosa fanno le ricercatrici e i ricercatori degli istituti di ricerca di Trieste. Torna oggi anche nel capoluogo regionale la Notte Europea dei Ricercatori, in programma dalle 16 alle 22 all'Immaginario Scientifico e alla Sala Luttazzi del Porto Vecchio. Molte le attività pratiche dedicate a tutte le fasce d'età, ma anche gli spettacoli e le conferenze. Inizia oggi al Teatro dei Fabbri di Trieste la 3ª edizione della rassegna Ai Fabbri 2, dedicata al teatro contemporaneo e organizzata dal Teatro Stabile La Contrada. Un calendario di 13 appuntamenti che presenta alcune delle proposte più interessanti della scena nazionale. Il primo sipario, questa sera alle 20:30, è per Sbada Bang del musicista triestino Anselmo Luisi. Ma sentiamo la direttrice artistica della Contrada, Livia Amabilino. Siamo molto felici di riavere Anselmo Luisi, un musicista triestino con alle spalle la partecipazione X Factor, che ci farà sorridere e stupire in Sbada Bang, che è una forma di body percussion di cui lui è un maestro, essendo lui un musicista, un percussionista, e lo fa con il suo corpo, quindi è veramente una cosa un po' speciale. Invece quali saranno alcuni degli altri spettacoli in cartellone? Ci sono 13 tra ospitalità e produzioni nostre. Allora, dal 13 al 14 ottobre avremo una, diciamo, rilettura di Dostoevskij, delle Notti Bianche, insieme al nostro Giacomo Seguli e Zoe Pernici, che è un idillio d'amore sognante che si svolge in 4 notti e un mattino. Poi avremo la nostra Diana Hedel, che è una produzione contrata, Pausolini, Caos contro il terrore, che accompagnata dalla musica dal vivo di Bibi Gelido ci farà sapere un un monologo dissacrante su alcuni aspetti del nostro poeta e scrittore friulano. E dopo avremo una coproduzione con il Teatro Stabile Sloveno, cioè così vicino Tako Blisi, commedia in un atto con 11 scene per Lara Komar, il suo bel canto. Questo è un monologo che diretto e scritto da Luca Quaglia, che vede, mettere in scena la paura dell'altro. Poi avremo un altro spettacolo in coproduzione con il CSS di Udine, che è Tesla, che naturalmente fa riferimento al grande scienziato serbo, e poi tanto altro. E qual è stato il riscontro di pubblico nelle prime due edizioni di questa rassegna? Ha suscitato molto interesse. Sono anni che noi programmiamo tanti spettacoli presso questa sede, ma mai in maniera sistematica. Negli ultimi due anni abbiamo inteso così ampliare l'offerta per un nuovo pubblico, un pubblico più giovane. E siamo allo sport calcio. Nel campionato di Serie C, la Triestina tornerà a giocare nello stadio di Fontanafredda oggi per affrontare il Mantova, a fischio d'inizio della gara alle 20:45. Chiudiamo con una notizia di servizio. Tra le 20 di domani, sabato, e le 8 di domenica, 1 ottobre, verrà chiuso il tratto autostradale tra Re di Puglia e il nodo di Villesse in direzione Venezia. La chiusura è necessaria per dare avvio al primo dei progetti di autostrade Alto Adriatico nell'ambito dei fondi concessi dal PNRR, circa 6.300.000 euro, per implementare un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti e viadotti. Nel caso specifico, il progetto riguarderà l'installazione nel corso della notte di pese dinamico, ovvero di sensori nell'asfalto, e di telecamere sul vicino portale in grado di rilevare nel prossimo futuro tutto il traffico in transito lungo la tratta, in particolare di misurare peso, numero di assi e altre caratteristiche tecniche dei mezzi pesanti. E alle 12:56 minuti si conclude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e di Massimo Vinoni. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.